Le intersezioni con gli assi. Gli assi cartesiani X e Y sono caratterizzati dal fatto che i loro punti hanno rispettivamente ordinata nulla e assissa nulla. Quindi le loro equazioni sono rispettivamente Y uguale 0 e X uguale 0. Per determinare le eventuali intersezioni con gli assi della funzione, si pone nella funzione stessa X uguale a 0, se il valore 0 appartiene al campo di esistenza, e si trova l'unico eventuale punto di intersezione con l'asse Y. Quindi Y uguale 0 e, risolvendo l'equazione f di x uguale 0, si trovano gli eventuali punti di intersezione con l'asse X.